giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La funzione giurisdizionale viene esercitata con efficienza e celerità, ma rimane il nodo della carenza del personale amministrativo, soprattutto nei tribunali di Udine, Gorizia e Pordenone. E la sintesi della relazione del presidente della Corte d'Appello di Trieste, Sergio Gordian, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. Se la crisi del Mar Rosso continuerà oltre febbraio, il governo potrebbe istituire dei ristori per i porti italiani. A dirlo il ministro Tajani in un'intervista al quotidiano Il Messaggero. Numerose le iniziative in occasione del giorno della memoria a Udine e Pordenone. A Trieste, in rispetto dello Shabbat ebraico, la cerimonia alla risiera di San Sabba si terrà domani. Ladri in azione nella notte sullo Zoncolan. Hanno rubato nelle casse di Promoturismo, cercato di aprire la cassaforte di un albergo e danneggiato porte e infissi. Il presidente della regione Fedriga apre alla rappresentanza garantita nel Consiglio regionale alla minoranza slovena. Lo ha detto intervenendo all'incontro della slovenska Skupnost. Per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 666 sentieri e dei rifugi del CAI, la regione stanzia 350.000 euro. A Percoto di Udine è in corso la 24esima edizione del premio Nonino. Tra i premiati Angelo Floramo, Alberto Mangel, Naomi Oreskes e Ronnie Bromo per Medici Senza Frontiere. Nel 30° anniversario della morte a Mostar dei nostri colleghi Lucchetta, Ota ed Angelo, a Trieste la fondazione a loro intitolata consegna il premio giornalistico Rotta Balcanica. L'Udinese alle 15 scende in campo a Bergamo e per il basket femminile in A2 derby tra la Delser e Futurosa. Buongiorno da Lara Zani e Nada Cioc. Si sta concludendo la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario a Trieste. Il presidente della Corte d'Appello, Sergio Gordian, nel suo intervento ha parlato di una giustizia che funziona e risponde con celerità. Tuttavia, la scopertura dell'organico del personale amministrativo rimane costante e in misura sempre più preoccupante, specie nei tribunali di Gorizia, Udine e Pordenone. La carenza di personale è il problema chiave evidenziato dal presidente della Corte d'Appello di Trieste, Sergio Gordian. Il magistrato, nella sua relazione, ha comunque assicurato che la funzione giurisdizionale viene esercitata con efficienza e celerità, in modo da offrire una risposta generalmente adeguata alle aspettative sociali ed economiche. La risposta di giustizia adeguata riguarda soprattutto il segmento della giustizia civile, spiega Gordian. Anche nell'ambito penale i risultati raggiunti sono lusinghieri sotto il profilo della produttività, ma pesa l'incidenza non superata di specifiche situazioni gravanti sul settore. Quanto al personale, la scopertura dell'organico del personale amministrativo rimane costante e in misura sempre più preoccupante, specie con relazione ai tribunali di Gorizia, Udine e Pordenone. In generale, per tutti gli uffici del distretto i funzionari UPP sono stati assegnati in maniera dimezzata rispetto al preventivato. Inoltre il loro numero è venuto assottigliandosi a seguito di dimissioni per assumere altro incarico, sicché l'apporto di detto personale al raggiungimento degli obiettivi proposti dal PNRR non è stato così significativo come preventivato. Infine, anche il numero di giudici onorari operanti nel distretto appare in numero inferiore al necessario, con scoperture che variano attorno al 50% dell'organico previsto, con particolare carenza a Gorizia e Pordenone. Se la crisi del Mar Rosso si spingerà oltre febbraio, il governo valuterà se dare sostegno e aiuto ai porti italiani più in difficoltà: Gioia Tauro, Brindisi, Taranto, Trieste e Genova. A dirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani in un colloquio con il quotidiano Messaggero. Se la crisi non si calma, valuteremo un intervento, spiega ancora il vice premier, che poi parla anche della nuova missione navale europea Aspis, a cui aderirà l'Italia e che potrebbe partire i primi di febbraio. Tanti i giovani a Udine davanti al monumento dei deportati per assistere alla cerimonia ufficiale per il giorno della memoria, con la deposizione delle corone in omaggio a quanti non sono ritornati dai lager nazisti. Nel pomeriggio alle 16.30 sotto la loggia del Lionello è in programma il reading letterario con le testimonianze dei deportati. A Pordenone, dopo la deposizione delle corone al monumento del deportato in piazza Maestri del Lavoro e presso la sede dell'ex provincia ai piedi della targa commemorativa, le scolaresche stanno seguendo il percorso disegnato dall'ANED lungo i luoghi significativi per la deportazione pordenonese. dall'ex caserma di via Montereale alle casermette di via Molinari, al carcere, seguendo poi le pietre d'inciampo. Il percorso ritratto di una città in pezzi organizzato da Aned Pordenone si ripete per la cittadinanza questo pomeriggio e domani. Le celebrazioni a Trieste si terranno domani, domenica 28 gennaio, in rispetto dello Shabbat ebraico. Il comitato Danilo Dolci comunica infine che l'iniziativa promossa per le 18 in Piazza Unità in occasione del Giorno della Memoria è stata sospesa per disposizioni governative. 12.35, siamo alla cronaca. Raffica di furti e danneggiamenti nella notte sullo Zoncolan. Sono state prese di mira diverse attività, tra le quali le casse di Promoturismo FVG per la vendita degli ski pass nei locali situati vicino all'hotel Enzo Moro. Rubati 2.500 euro di fondo cassa e circa 10.000 euro di danni ai serramenti che sono stati forzati e divelti. I ladri sono entrati anche nell'hotel e hanno cercato di aprire la cassaforte senza però riuscirci. Presa di mira anche la vicina sede dello Zoncolan Ski Academy, asportando l'intero incasso della settimana, circa 4.000 euro. E nella zona sono stati segnalati nelle ultime ore altri furti al noleggio sci e negli stavoli vicino alle piste. Indagano i carabinieri di Tolmezzo. Promoturismo FVG ha garantito l'operatività delle casse nonostante i danni alle strutture in una giornata che vede la presenza di migliaia di sciatori. Per Promoturismo si tratta di un secondo furto con scasso dei propri ambienti dopo che nel gennaio del 2023 a Sella Nevea vennero rubati 20.000 euro nella stazione di partenza della cabinovia del Canin. Incendio nella notte in un'abitazione di via Valle a Pordenone, nel quartiere di Valle Noncello. Interessata dalle fiamme una porzione di circa 50 metri quadri del tetto della casa. Le persone che si trovavano all'interno sono riuscite a mettersi in salvo. L'allarme è scattato attorno alle 2.30. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Maniago e di San Vito al Tagliamento, con 7 mezzi e 14 operatori. Dopo aver verificato che in casa non ci fosse più nessuno, hanno spento il fuoco, evitando che si propagasse alle costruzioni circostanti. Il lavoro del personale impegnato è durato circa 6 ore. La minoranza slovena all'interno del Consiglio regionale deve essere rappresentata di diritto, senza l'obbligo di aggregarsi a qualsiasi forza politica, lo ha detto il presidente Fedriga intervenendo ieri sera all'incontro di inizio anno organizzato dalla slovenska Skupnost a San Floriano del Coglio. È nostro interesse, ha aggiunto Fedriga, concretizzare questo passaggio all'interno di una più ampia riforma elettorale. Auspico un pieno coinvolgimento da parte delle diverse forze politiche al fine di distinguere la rappresentanza delle minoranze dalle rappresentanze di partito. Ha poi proseguito sottolineando che la comunità slovena è parte integrante del Friuli Venezia Giulia con la propria lingua e cultura e può svolgere un ruolo di ponte, di collegamento, di dialogo. Una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire il reato di omicidio e invalidità sul lavoro è l'ipotesi lanciata nel convegno organizzato a Pordenone dal sindacato USB in collaborazione con Potere al Popolo e Open Sinistra FVG. Questa legge è una risposta alla voce di chi non c'è più, ha commentato il consigliere regionale Furio Onsel. Ci adopereremo per raccogliere quanto più numerose le firme, soprattutto in un territorio come il pordenonese, che è sopra la media nazionale e sopra la media regionale, per morti su 1 milione di lavoratori. La Regione ha stanziato 350.000 euro che saranno gestiti dal CAI per la manutenzione dei sentieri dei rifugi e bivacchi. Il programma, in base al quale è stato deliberato il finanziamento, definisce le priorità del CAI a partire dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei 4.600 chilometri dei 666 sentieri, ferrate incluse, a cui seguono le manutenzioni di rifugi e bivacchi, l'organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento delle attività alpinistiche. Gli sprechi dovuti alle inefficienze della macchina pubblica in Italia sono pari a 4 volte il PIL del Friuli Venezia Giulia. In realtà però la nostra regione svetta fra le altre per efficienza, anche se nel confronto con le aree regionali più avanzate d'Europa scontiamo ancora un grave ritardo. A dirlo è la CGA di Mestre. L'Università di Göteborg, in Svezia, intervista con regolarità 600 cittadini delle 208 regioni europee per chiedere qual è la loro percezione della qualità, dell'imparzialità e della corruzione della pubblica amministrazione. Gli ultimi dati elaborati dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre sono del 2021. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione italiana a comparire nella classifica, dopo la provincia autonoma di Trento e poco prima del Veneto. si piazza tuttavia solo al 104esimo posto nell'Unione Europea. La Baviera, per esempio, è al 32esimo posto, l'Île-de-France al 96esimo. Da precisare che l'indice non misura la qualità dell'amministrazione regionale, ma il funzionamento delle società ed enti pubblici sul territorio, come le aziende sanitarie, i comuni, le università, la rete ferroviaria, l'Agenzia delle Entrate. La CGA di Mestre ha calcolato anche quanti sono gli sprechi della pubblica amministrazione nel complesso in Italia, dove per sprechi si intendono i costi della burocrazia per le imprese, i debiti con i fornitori della pubblica amministrazione, il costo della lentezza della giustizia, le inefficienze della sanità e nel trasporto pubblico locale. Tutto ciò farebbe perdere al sistema Paese Italia oltre 180 miliardi di euro all'anno, un importo pari a 4 volte il PIL del Friuli Venezia Giulia, che nel 2023 è stato di 45 miliardi di euro. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 10 gradi e 5 decimi, Udine 10 gradi, Gorizia 9, Pordenone 6 gradi e mezzo, Forni di Sopra 9, Piancavallo 7 gradi e mezzo, Tolmezzo 7 gradi, Tarvisio 4, sullo Zoncolan 3 gradi, sull'Ussari 5 decimi di grado, a Lignano 7 gradi e mezzo, a Grado 6 gradi e mezzo. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Su tutta la regione cielo in prevalenza sereno, possibili foschie o locali nebbie in pianura nelle ore più fredde. Sui monti ad alta quota, oltre i 2000 metri circa, soffierà vento moderato o sostenuto da nord o nord-ovest. Nel segno della pace, l'edizione del Premio Nonnino 2024, cerimonia di consegna in corso in questi minuti alle storiche distillerie di Ronchi di Percoto, 5 i premiati, oltre 400 gli ospiti, ci dice di più in diretta Marinella Chirico. Sì, la grande festa è qui, la cerimonia del Premio Nonnino 2024 in pieno svolgimento alle distillerie di Ronchi di Percoto. I 400 invitati, è per loro una festa davvero grande, un'atmosfera molto coinvolgente. Subito i vincitori delle 4 sezioni, Rizitau va ad Angelo Floramo, scrittore storico friulano, e ama definirsi figlio della frontiera. Condivide il premio con le donne bosniache della cooperativa di Srebrenica. Insieme i loro frutti della pace, marmellate vendute adesso anche in Italia. Poi Ronnie Brauman, 73 anni, medico francese nato a Gerusalemme, che è vincitore del Nonnino 2024, ha dedicato la sua vita al servizio della sofferenza umana. Poi a consegnare il premio, e questo veramente è stato un momento emozionante, Edgar Morin, 102 anni, filosofo, sociologo francese, in giuria dal 2007, collegato in diretta dalla Tunisia. E poi il premio internazionale Nonnino, lo scrittore argentino Alberto Manguel, ancora il premio maestro del nostro tempo, la scienziata americana Naomi Oreskes, la scienziata della terra. Si diceva la grande festa, gli alambicchi, il canto dell'Ibiamo, uno spettacolo anche di fuochi, e poi il coro dei bambini con le mani guantate di bianco, le manos blancas, che saranno addirittura al Festival di Sanremo la prossima settimana. La linea a voi. Grazie a Marinella Chirico. Il Trieste Film Festival nella giornata conclusiva dedica l'evento finale alla Giornata della Memoria con la proiezione in anteprima italiana del film Zona di Interesse di Jonathan Glazer, tratto dal romanzo di Martina Miss. Racconta la vita borghese delle famiglie dei gerarchi nazisti che dirigevano Auschwitz. La produttrice del film, la polacca Eva Puszczynska, sarà tra i premiati sul palco del Politeama Rossetti alle 20. Nel pomeriggio al cinema Ariston alle 14 il documentario fuori concorso dedicato alla Shoah Nomi al vento di Anna Albertano. A seguire per il premio Salani l'albume d'oro di Samira Guadagnolo e Tiziano Doria. Alle 16 un'altra anteprima italiana con il documentario su Alexander Dubček. Infine alle 18 Tempo d'attesa di Claudia Brignone. Nel 30° anniversario della morte dei nostri 3 colleghi, Marco Lucchetta, Sasha Otta e Dario D'Angelo, a Mostar, la fondazione a loro intitolata promuove una serie di eventi legati alla rotta balcanica, innanzitutto la cerimonia di premiazione dell'omonimo premio giornalistico alle 18.30 al Teatro Miela, il conferimento al regista Andrea Segre del premio speciale della fondazione Lucchetta, Otta, D'Angelo, Hrovatin. I vincitori del premio giornalistico saranno saranno protagonisti quindi di un incontro dal titolo La rotta balcanica, una strada senza diritti. Intanto le immagini dal silo scolte negli scatti di Luca Greco e Francesco Cibati saranno messe in mostra negli spazi del teatro. Chiuderà la giornata il film di Andrea Segre, Trieste bella di notte, proiezione alle 20. E alla tragedia di Mostar, alla memoria dei nostri tre colleghi Dario D'Angelo, Marco Rucchetta e Sasha Ota, saranno dedicate anche le rubriche Est-Ovest di domani, quella radiofonica e quella televisiva. Est-Ovest Radio in onda domani mattina su queste frequenze alle 6:05, mentre Est-Ovest TV andrà in onda come sempre alle 11:05 su Rai 3. Ecco alcune anticipazioni della trasmissione TV dedicata ai nostri colleghi uccisi a Mostar. Il 28 gennaio del 1994, esattamente 30 anni fa, una bomba uccise a Mostar in Bosnia ed Erzegovina Dario D'Angelo, Marco Lucchetta, Alexander Sasha Ota. I componenti della troupe della RAI di Trieste erano impegnati a realizzare un servizio sull'infanzia in guerra. Alla loro memoria abbiamo dedicato la puntata di Est-Ovest. Ascolterete le testimonianze dei colleghi e degli amici, vi racconteremo come è oggi Mostar, una città ancora ferita dalla guerra. Vi presenteremo anche il lavoro della Fondazione Lucchetta, Ota D'Angelo e Hrovatin. Vi mostreremo come vivono oggi i figli dei nostri colleghi uccisi. Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. Nell'anniversario della morte dei tre colleghi, la struttura Programmi Italiani della sede RAI del Friuli Venezia Giulia dedica loro il documentario Mostar 30 anni e oltre di Piero Pieri, con la collaborazione di Alessandro Spanghero e le riprese di Gianni Toffoluti, in onda domani alle 9:15 su RAI 3 regionale, disponibile anche su RAI Play. L'AIRC ripropone la campagna delle arance della salute. I volontari dell'associazione sono oggi in molte piazze italiane per vendere le arance e raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori. Nel 2023 l'AIRC ha investito oltre 143 milioni di euro per garantire continuità al lavoro di più di 6.000 ricercatori impegnati a trovare le migliori soluzioni per prevenire, diagnosticare e curare il cancro. Borse e progetti finanziati da AIRC anche a centri di ricerca insediati in area Science Park. Sono 6 gli Investigator Grant, ovvero i progetti di ricerca indipendente della durata di 5 anni, che grazie all'AIRC sosterranno altrettanti ricercatori operativi nell'area Science Park, di questi 4 assegnati all'ICGEB. Gli studi di Rebecca Bertiolo si stanno concentrando sulle alterazioni biomeccaniche e sulle immunità di un aggressivo tipo di tumore al seno. Capirne i meccanismi molecolari è fondamentale per trovare nuove potenziali strategie terapeutiche. Studio una proteina molto espressa nei tumori al seno che si chiama PIN1 e vorremmo capire come la sua inibizione possa risensibilizzare le chemioterapie e le immunoterapie per una miglior guarigione del tumore primario delle metastasi che si formano. Lavoro nel gruppo di ricerca del professor Gianino Del Sal, che ha già avuto molti finanziamenti AIRC nel corso degli anni, tuttora, e infatti con uno degli ultimi finanziamenti abbiamo scoperto come una delle proteine più mutate nel cancro, che è P53, possa riprogrammare il metabolismo delle cellule tumorali per guadagnare dei vantaggi nella proliferazione del tumore primario, del tumore al seno. Un'altra ricerca converge sulle malattie metaboliche epatiche, in particolare sul fegato grasso, malattie di cui si parla poco e che tuttavia registrano numeri imponenti, come ci spiega il ricercatore Giovanni Sorrentino. In alcuni casi questa malattia, quando cronicizzata, può sfociare in situazioni patologiche molto più complesse come la steatoepatite e come il tumore del fegato. Quindi noi stiamo cercando di capire i meccanismi molecolari che stanno alla base di questa progressione. E l'obiettivo ovviamente è quello di individuare nuovi bersagli, nuovi farmaci che potrebbero essere utilizzati in questi pazienti per prevenire la progressione. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Udine invece è tra i partner di una ricerca europea sull'innovazione dei trattamenti del cancro al seno, approfondendo il ruolo dell'ossido nitrico nella progressione tumorale. Il progetto europeo No Cancer Net, finanziato nell'ambito del programma Horizon Europe, è coordinato da Valentina Rapozzi, docente del Dipartimento di Medicina. L'ossido nitrico, sottolinea Valentina Rapozzi, è una molecola gassosa che agisce come radicale libero e non è semplice studiare studiarla perché può manifestare proprietà diverse. Nel caso del tumore, per esempio, l'ossido nitrico può avere funzione sia pro che antineoplastica a seconda della quantità presente nel tessuto, del tipo cellulare coinvolto, del microambiente tumorale e della sua interazione con altre specie reattive. E ora lo sport, dopo la pesantissima partita dell'Udinese contro il Milan con gli strascichi anche fuori dal campo per gli insulti razzisti dalla curva udinese al portiere rossonero Maignan, la squadra di Cioffi cerca la serenità e la concentrazione giusta per ritrovare nuovi punti in classifica. Alle 15 l'Udinese giocherà a Bergamo sul difficile campo dell'Atalanta. Basket, derby nella A2 femminile questa sera al Pala Carnera di Udine tra la Delser e Futurosa, una sfida tra due squadre che stanno dando il meglio di sé nel campionato. Le friulane sono seconde in classifica con 26 punti, mentre le triestine con 20 punti sono quarte. Sarà la partita più bella della stagione, secondo il coach triestino Mura, in un momento ideale per entrambe le formazioni. Noi, aggiunge Mura, veniamo da una striscia di 4 vittorie consecutive, loro imbattute da 5 gare, con il valore aggiunto di non aver mai perso sul parquet di casa. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per assistere a un bellissimo derby. Alcuni appuntamenti alla libreria Lovat di Trieste alle 18. Sana Darghmuni presenta La saggezza del condannato a morte, 28 poesie di Mahmoud Darwish, poeta, scrittore e giornalista palestinese, e autore di circa 20 raccolte di poesie e 7 opere in prosa, ed è considerato tra i maggiori poeti in lingua araba. Presentazione del libro Gli innamorati di Piazza Oberdan dell'austriaco Christian Klinger, che ricostruisce la storia di Pino Robusti, studente di architettura fucilato a Trieste alla risiera di San Saba. La presentazione alla libreria Ubic di Trieste alle 18. Alla Storia Hotel Italia di Udine Marcello Veneziani presenta L'amore necessario, la forza che muove il mondo alle 18. E domani, dopo il giornale radio delle 8:30, va in onda la nostra rubrica Vita nei campi, dedicata all'agricoltura e non solo. Sentiamo le anticipazioni. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura una puntata sulle proprietà salutistiche delle verdure invernali. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, la Madonna Candelora e la Dea Bianca, tutti i rituali ancestrali legati alla luce. Per i legumi da granella, il tanto bistrattato lupino, che ora vede un rilancio di popolarità. E ancora, i contenitori per la fermentazione del pigiato, ce ne sono migliaia per forme materiali e destinazioni d'uso. Nella rubrica dei grandi alberi, la magnolia monumentale del Parco Rizzani a Pagnacco, e per lo spazio della gastronomia, focus sull'onnipresente cipolla declinata per l'occasione nella sua celeberrima zuppa. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E con questo concludiamo questo GR, che è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Ciò, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Federico Comar. A tutti voi una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.